RadioTube Social Network. 17:05 minuti dopo il giornale radio di Gigi Donelli, eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube, quella dedicata all'attualità della rete. Dalla rete sono successe un sacco di cose questa settimana, tanti video in primo piano. Allora, sappiamo che quel video in primo piano, quello, avete capito, quello del citofono. Ecco, non voglio parlare di quell'argomento perché poi entreremmo in cose elettorali. È un weekend un po' particolare, quindi facciamo una cosa. La politica per oggi la lasciamo all'informazione, visto che ci sono insomma momenti di riflessione per chi deve votare questo fine settimana, ma soprattutto allo speciale elettorale che ci sarà domani sera su Radio 24, quindi c'è la redazione già al lavoro per tutti gli speciali. Si parte domani sera, appunto, con la copertura delle elezioni su Radio 24. Allora, 349-238-6666, numero per i vostri SMS e WhatsApp. I miei social sono @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Allora, come sempre nel nostro RadioTube Social Network abbiamo un co-conduttore d'eccezione. Oggi sono andata a disturbare un mio amico che ha molto da fare in questo periodo, ma adesso ne parliamo. Head of Publishing di Lutz, ma anche direttore responsabile di Sapiens. Poi gli chiedo qualcosa di più, perché Sapiens, detta anche Spns, è una testata che a me piace molto. Gabriele Ferraresi, bentornato Gabriele. Grazie Marta e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, è qualche mese che non ci vediamo qui a Radio 24. Cosa è successo nel frattempo? Praticamente niente, sono diventato papà, è nato Giulio, eccolo, che ha 3 mesi, ed è bellissimo. Mi ha appena mandato una foto, non vedo l'ora di andare a vederlo perché è giù da qualche parte, voglio vedere Giulio. Allora, intanto ti chiedo, come ti comporti tu con le immagini del bimbo sui social? Allora, devo dire che questa è una domanda molto saggia, molto intelligente, e devo dire che siamo abbastanza tranquilli per ora, nel senso che non lo censuriamo, non ci mettiamo sopra. No, io non sopporto quei genitori che mettono la foto e poi ci mettono sopra uno sticker. Allora non la metterla. Bravo, esatto. Cioè, se tu sei dell'idea che non bisogna, non metti la foto, punto. No, in fondo la privacy è finita, l'ha detto Mark Zuckerberg sì, un po' di anni fa, e secondo me non ha tutti i torti. La privacy dobbiamo ridefinirla un po', un concetto un po' volatile forse in questo periodo storico, è un po' complicato, però ce ne stiamo fregando completamente. No, è perché appunto io invece voglio vedere le stories del bimbo, esatto, così bello, con le sue tutine, sono molto appassionata. Allora, da ieri sera su tutti i giornali online è in evidenza questo video, perché è un monologo di Mattia Torre. Parleremo di Mattia Torre, sicuramente lo farà La Rosa Purpurea, lo farà domani anche I Padri Eterni. Mattia Torre, sceneggiatore italiano scomparso prematuramente l'anno scorso, ha scritto questo film che si chiama Figli e che esce questo fine settimana. Ma ieri sera uno degli attori feticcio di Mattia Torre e anche protagonista di Figli, Valerio Mastandrea, ha recitato questo monologo appunto sui genitori. Quindi io te ne faccio sentire due pezzettini, Gabriele, perché voglio prepararti alla cosa, perché è un bambino di 3 mesi, è piccolo. Allora, sentiamo come inizia questo monologo di Mattia Torre recitato da Valerio Mastandrea. Ogni coppia di genitori ha una propria storia, no? E ognuno è diverso dall'altro. Ci sono per esempio i genitori apprensivi, sono diventati genitori da grandi e tutta la loro vita ha iniziato a girare dall'oggi all'indomani solo intorno al figlio. Rinuncia, sacrificio, abnegazione, dedizione maniacale al piccolo, il quale viene pulito con olio portato a temperatura, fa lezioni di inglese a 6 mesi. Non esce quasi mai perché fa freddo o fa caldo, è ricoperto di ogni attenzione con i danni che questo comporta, perché il bambino crede naturale sentirsi al centro del mondo e invece da grande dovrà affrontare come tutti il capitalismo e l'agenzia delle entrate. Ci sono poi i genitori naturisti, ai loro bambini la natura viene imposta a forza. Non possono mangiare merendine, non possono giocare con l'iPad, non possono guardare la TV. A Natale i genitori regalano al figlio una scarpa sola, l'altra arriva a Pasqua, così quello impara a non dare niente per scontato. Poi però a 18 anni si farà di eroina in una piazzola vicino alla stazione, ma è un altro discorso. Allora, devo dire, bellissimo. Poi ci sono svariati altri tipi di genitori. Io sono impazzita poi per come finisce, perché c'è una cosa che accomuna tutti i genitori, eccola qua. Ma tutti i genitori però, tutti, sono accomunati da una cosa: la strana e insindacabile libertà di usare una certa violenza quando si pulisce con un fazzoletto la bocca di un bambino. Dopo due passate, la successiva è sempre ingiustificatamente forte, violenta. Padri, madri, nonne, zii, alla terza passata sulla bocca del bambino, tutti tirano fuori una certa rabbia, come a dire tacitamente: bambino, mi stai sul cazzo. Vabbè, per te è ancora presto perché ha 3 mesi, però è molto bella. Però sì, diciamo che rintraccio delle venature di verità, soprattutto Ecco, questa cosa del ecco. fazzolettino, Del sì. fazzolettino. No, dai, era solo per introdurti, anche grazie a questo video che appunto l'hanno ripreso tutti i quotidiani online oggi, quindi è veramente un monologo molto carino. Sono solo due brevi estratti, andatelo a recuperare perché è molto carino. Poi appunto, cioè, quale occasione migliore di questo argomento, parlare di questo argomento con un Gabriele Ferraresi, che è super esperto di rete, che ha un bimbo di 3 mesi, peraltro anche la mamma, cioè, lavora con la rete, La quindi mamma anche per è, lei. esatto, è un influencer, se si può dire questa parola, si Sì, io può. faccio sempre C dopo Esatto, bisogna sempre fare un po' influencer. attenzione, però la mamma sì, lavora con Instagram, è una bravissima fotografa, per cui sì, è normale anche che sia esposto, sempre, insomma, con attenzione, senza Insomma, non Leone esagerare. Ferragni. No, naturalmente no, non gli abbiamo fatto l'account, tipo, quella roba lì no, quella lì è un po' troppo, No, no, però. vabbè, dai, insomma, alla fine un po' di serenità, perché Sì, insomma, esatto, sì. relax, Ecco, tranquillità. direi consapevolezza, conoscere bene i mezzi, conoscere bene gli effetti e viverli, insomma, con Ma serenità. sì. Potrei riassumere così il vostro atteggiamento. Totalmente d'accordo, anche perché sono strumenti che fanno parte della nostra vita. La rete e i social media non sono da tempo più un layer separato dalla nostra vita, chiamiamola reale, quella fisica in cui ci stiamo parlando vicini noi due. Per cui è anche, secondo me, sbagliato tagliare tutto, essere troppo manichei, è tutto brutto, è tutto sbagliato. Bisogna prendere atto che ci sono queste cose e usarle con, insomma, con un po' di buon senso, con un po' di tranquillità. È normale. Meraviglioso. Allora, però abbiamo parlato di una cosa così bella come i bimbi, adesso dobbiamo parlare delle polemiche della settimana. Polemiche, polemiche. Allora, un sacco di persone in questi giorni mi chiedono: ma quando inizia Sanremo? E io dico: no, tra 10 giorni. E tutti dicono: ma come tra 10 giorni? Cioè, ancora 10 giorni prima che cominci, perché ogni giorno ce n'è una. Ovviamente, allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di Amadeus, della conferenza stampa di Amadeus. Adesso la polemica è tutta su Junior Kelly, che è un rapper romano che per un sacco di tempo si è mostrato con la maschera, poi se l'è tolta. È un ragazzo che non ha mai nascosto di aver avuto un passato un po' turbolento. Allora, io ho recuperato un'intervista di qualche tempo fa, un'intervista molto bella di Antonio Di Chile Di Stefano in Esse Magazine. Aveva raccontato così del suo passato, Junior Kelly. Per quanto riguarda il mio percorso, devo dire grazie alla mia famiglia, a mio fratello, che è più grande, forse è la prima volta che lo dico, che è un fratello, ha 10 anni più di me, e mi ha fatto un po' da padre. Quindi, diciamo, la paura di deludere un familiare, soprattutto come mio fratello, nel senso che siamo proprio legati, legatissimi, magari mi ha fatto fare un passo indietro su alcune cose. E poi ti dico, la musica anche a me mi ha aiutato molto. La stessa musica, la possibilità di sfogarmi nei testi, nei video, mi ha aiutato la musica, però primo punto la famiglia. Insomma, devo dire che sentendolo parlare si capisce che non è proprio un pericoloso No, criminale, è un ragazzo esatto. riflessivo che racconta anche di un passato un po' difficile. I testi nel rap è Però un. vogliamo aprire questa porta? Apriamo questa porta. Insomma, sono almeno 20 anni, 30 anni, 35 anni da, non lo so, da quando apparve sui dischi rap americani, Parental Advisory, Sì. Explicit Lyrics. È tutto normale, è tutto un grande gioco, poi è tutta una grande recita. artisti che magari dicono cose terribili, queste cose terribili poi vengono ascoltate da persone normalissime che sono in coda in tangenziale al mattino per andare ad Assago Milano Fiori, e queste persone sì, non diventano, non nei Bronx, no, ma esatto, sì, non diventano naturalmente dei pericolosi assassini, ma sono semplicemente delle persone che vogliono ascoltare la voce di una controcultura, oppure una poetica o un'estetica, anche perché Junior Kelly ha puntato molto sui video in passato e su un'estetica molto particolare, anche questa cosa della maschera, che ritorna un po' col cantante mascherato. Ah, poi, sì, sì, sì, ah, ieri sera mi sono divertita apposta. Tantissimo, sì. Allora, facciamo una cosa, diamo la linea al traffico, perché poi voglio chiedere, ti voglio ancora far parlare di Junior Kelly, perché lui oggi è intervenuto su Instagram, e poi parliamo di quello che ha scritto ieri sera sempre sui social Loredana Bertè. Tra poco, viabilità e poi saremo ancora insieme. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Radio Tube Social Network. Prima con Gabriele Ferraresi di consapevolezza nell'uso della rete, consapevolezza anche nell'uso della musica a questo punto. Ma perché certo, i ragazzi ascoltano i rapper, non dobbiamo stupirci, forse dobbiamo ascoltarli prima noi. Esatto, e anche capire ed entrare un pochino, diciamo, non avere fretta di giudicare, questa è una regola valida sempre in ogni ambito della vita, però anche e soprattutto con questi ragazzi, perché Junior Kelly o tantissimi altri artisti emersi nella trap negli ultimi 5 anni, diciamo, sono molto distanti esteticamente da quello che siamo abituati a vedere come artista. Certo. Però in realtà sono sempre degli esseri umani, sono sempre dei ragazzi che hanno dei desideri, delle vite non così sideralmente lontane da quelle che potevano cantare degli altri artisti 30 anni prima. È cambiata un po' l'estetica, che magari spaventa un po', ma alla fine siamo sempre lì. Sempre. Devo dire che appunto forse era utile prima, adesso è quanto mai necessario. Esatto. Capire, sapere cosa ascoltano i ragazzi per magari parlarne insieme, perché certo, è un po' come vedere un film con un ammazzamento, nessuno esatto, sta invitando ad ammazzare. Allora, ma cosa è successo? Allora, ieri Loredana Bertè sulla sua pagina Facebook, ormai i social network sono più delle agenzie, perché ormai arrivano da lì le esternazioni degli artisti come degli sportivi e spesso anche dei politici, ha scritto: chiede alla sala stampa dell'Ariston di escludere a priori una possibile candidatura al premio della critica Mia Martini di qualsiasi artista che promuova attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale verso le donne o misoginia in generale, citando il bullismo al quale purtroppo è stata sottoposta per anni Mia Martini. E oggi ha scritto Junior Kelly, io lo vado a recuperare su Instagram nelle stories, quindi ci devo mettere il ditino sopra per fermarle. È da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film. Purtroppo moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno. La cosa più importante che voglio ribadire è che la musica mi ha dato una speranza e mi ha salvato la vita in un momento in cui avevo una marea di problemi, ed è solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo. Per questo ad Amadeus ho proposto un brano che non ha quei testi e quelle immagini, che non avrà accanto la parola, come dicevi tu Gabriele, explicit. Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne ma degli esseri umani, uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c'è Valentina al mio fianco. Siamo complici, amici, ci amiamo e rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo. Ecco, terribile, è spaventoso questo. È uno fa paura. Che, fa paura, perché terribile. No, devo dire che è stato molto carino. Poi ovviamente ha scelto il mezzo che arriva ai ragazzi, cioè Instagram in particolare, una storia di Instagram. E direi che io aspetto di vederlo su quel palco. Ho già sentito il pezzo è molto tosto, è molto molto molto molto tosto e non parla di violenza, non... Poi è giusto secondo me sapere cosa ascoltano i ragazzi e parlarne con loro. Mamma mia, come sto diventando veramente vecchia zia, proprio vecchia zia. Va bene, allora parliamo di una cosa più leggera. Allora voglio introdurla con questo video che sono andata a pescare, ragazzi. A me piacciono, sai, quelle catene, quelle reti TV o radio americane con la sigla. Okay. Questa è KHON2 News e sono della Hawaii. Niente, okay. Ho preso questo video perché mi piaceva. Dura pochi secondi, chi capisce l'inglese afferrerà subito, altrimenti poi ve lo spiego velocemente. Ecco cosa sta accadendo in rete, un delirio. Ecco. Dolly Parton is a trendsetter not only in the music world, but apparently on social media. The country icon has sparked one of 2020's first viral challenges among the stars. Now, she shared an Instagram post this week of four contrasting pictures of herself that would be appropriate profile pics for different social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Tinder. And she captioned it with, "Get a woman who can do it all." Allora, Dolly Parton, country icon, icona country, è una trendsetter, stabilisce dei trend non solo nella musica, tra l'altro lei è ancora di attualità perché ha appena ispirato e interpretato una serie di Netflix, quindi insomma è ancora amatissima negli Stati Uniti, ma anche nella rete, perché è nato il Dolly Parton Challenge. Allora voglio parlarne con te, ma certo, voglio parlarne anche con il nostro ospite che tu conosci molto bene, ma che conoscono molto bene anche gli ascoltatori di Radio 24, Michele Boroni. Ciao Michele! Ciao a tutti, buongiorno! Dai, iniziamo con questa scemenza di queste ultime ore che tutti avranno visto sui social. Allora, che cosa ha fatto Dolly Parton? Ha pubblicato un collage di quattro foto della sua carriera, quindi vestita in quattro modi diversi, e lei dice: provate voi a trovare un'altra donna che ha quattro apparenze diverse, perfette per quattro diversi social network. LinkedIn, quindi molto professionale, Facebook, quindi molto familiare, Instagram, quindi molto fotografica, fotogenica, e Tinder, quindi raga, da acchiappo. Qui c'è l'ironia. Gabriele, tu quanti ne hai visti? L'hai fatto tu? Non l'ho fatto, ma ne ho visti, esatto. Non l'ho fatto perché ho ancora un briciolo, diciamo, di amor proprio, però ne ho visti, l'ha fatto chiunque, l'hanno fatto tutti. Qualcuno mi sta dicendo che dovevo evitare di menzionare la citofonata. No, allora ragazzi, io ho detto che quello è il video della settimana e sicuramente lo è. Non si può dire che non lo sia. Non si può dire che non lo sia, altrimenti poi magari qualcuno dice la puntata è registrata perché non l'avete menzionato. L'abbiamo menzionato, caro Andrea, però ovviamente non è il momento giusto per parlare favore, contro, sopra, sotto, niente. L'abbiamo menzionato, Andrea, non arrabbiarti con me, uffa, che sono stata brava. Michele, tu l'hai fatto il Dolly Parton Challenge? No, non l'ho fatto, sono molto curioso, lo sto seguendo, ma non l'ho fatto anche perché in realtà, insomma, se segui anche un po' la mia attività sui social, non si vede mai nessuna mia foto. No, è vero, è vero. Non so come mai? Ma perché in generale io sono sempre stato un come dire, poco amante delle foto, già in epoca pre-social, pre-web, quindi anche c'era la foto della scuola, eccetera, mi informavo e non andavo quel giorno a scuola, non lo so, idiosincrasia nei confronti dell'immagine, e quindi no, non l'ho fatta, però la trovo una cosa molto divertente ed è un fenomeno interessantissimo da analizzare, no? Perché è un po' la propria rappresentazione nei social, a seconda del social di cui si parla o si vive o si abita, cambia fondamentalmente il modo in cui ti rappresenti, come un vestito, no? Cioè il vestito da cerimonia o il vestito casual, e lo stesso è la propria immagine e il proprio essere all'interno di un social professionale o magari più ludico. Quindi al di là della cosa divertente, c'è una riflessione seria. Ovviamente poi ci sono tutte le parodie, ne stanno arrivando anche su Mauro da Brescia, ce ne stava andando un sacco su WhatsApp al 349-286-666. L'ha fatto Cristina D'Avena e su quella di Tinder ha messo la sua foto con Rocco Siffredi. Ce n'è uno con Cristiano Malgioglio, irriferibile. Uno con Laura Pausini, molto divertente. Non li avevo visti tutti, ma sono veramente sicuramente sui vostri social vi è apparsa questa cosa con le quattro foto. Sappiate che ha avuto origine da Dolly Parton, personaggio famosissimo in America, una cantante non giovanissima ma che ha ancora davvero tanto seguito. A proposito di seguito, qui bisogna parlare di un fenomeno che noi in realtà abbiamo menzionato già molte volte, l'avevamo detto alla fine del 2019, arriverà un film che farà sensazione, abbiamo sentito il trailer, abbiamo capito che noi non eravamo esattamente il target di quel film, ma che avrebbe fatto successo. Questo è un servizio che è andato in onda su Studio Aperto. Noi dobbiamo assolutamente uscire di qui. Ho un'idea, al mio tre ci muoviamo. No. Uno. No. Due. No. Tre. Detto che non era una bella idea. Almeno la testa è fuori. Se prima erano star della rete e i babysitter più desiderati d'Italia, ora sono star del cinema dagli incassi milionari. La vendetta del signor S, il film d'esordio dei Me contro te, coppia di youtuber siciliani molto amata dai bambini, ha sbancato il botteghino. Ci vogliono separare? È la fine dei Me. Allora, Studio Aperto con il servizio sui Me contro te, lui e Sofì, ce lo aspettavamo un successo del genere? Allora, così tanto onestamente no, anche perché se ci pensi, a fronte di un film che per produrlo sarà costato quanto? Sì, a basso budget. 1500, 1000 euro, se no sarà costato niente. Forse 1000 euro però sicuramente non ad altissimo budget. Non ad alto budget, hanno portato YouTube al cinema, in sostanza. Certo, ed è il film di YouTuber che ha battuto tutti gli incassi, in tanti ci hanno provato, e loro hanno fatto... Loro ci sono riusciti usando forse il loro stesso appeal che hanno su un pubblico molto piccolo. Quindi Michele, allora Gabriele ancora non è nel trend perché è un bimbo troppo piccolo, però credo che quelli che hanno bambini un filo più grandi siano stati tutti, lui non è ancora nel trend, tu ci sei già uscito, tutti quelli che hanno bambini da elementari sono stati costretti ad andare a vedere I Me contro te. Sì, è quello la grande differenza rispetto ad altri youtuber o instagrammer che hanno provato a fare il salto nel cinema e che non hanno avuto quei numeri che invece hanno in rete, perché fondamentalmente appunto qua è il pubblico che fa la differenza, bambini di 8, 9, 10 anni che magari si sentono, tra virgolette, troppo grandi per i cartoni ormai, sono ancora troppo piccoli per appassionarsi a film per famiglie e hanno trovato questi personaggi che sono diventati loro amici giornalieri su YouTube, e il fatto di vederli sul grande schermo insomma è comunque un salto importante anche per il pubblico di quell'età. Allora, vi leggo qualche numero da una agenzia di Radio Core che è uscita qualche giorno fa, Me contro te. Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono i veri nomi di lui e Sofì, espongono un fatturato aumentato di 5 volte in un anno, raggiungendo i 2,8 milioni. Incredibile il margine di guadagno, il rapporto del MOL sui ricavi, sulla base dei documenti portati all'Assemblea dei Soci, come così ha ricostruito Radio Core, è stato pari a 92,5. L'utile netto è aumentato più di 7 volte in un anno, portandosi a 1,75 milioni. Perché ricordiamoci che appunto loro non hanno solo un sito YouTube, ma hanno già fatto libri, libri di fiabe. Il primo album, volume dei loro libri ha venduto 160.000 copie. Sì, sì, giochi, pacchetti di figurine, cioè album di figurine, un programma su Disney Channel, cioè voglio dire, comunque il film è una consacrazione e come dire, va verso un pubblico più grande che vedono nella classifica di Cinepelle questo Me contro te, vedono le code al cinema e dicono ma chi sono? Però in realtà quel pubblico e quelle famiglie già li conoscevano molto bene. Devo dire che una cosa che mi stupisce è come sia ormai labile il confine tra i bambini che ascoltano il rap e guardano i video dei rapper e dei trapper che guardano i Me contro te, perché cioè com'è sta cosa? Come si salta come da si questa cosa? Gabriele lo sta pensando anche un po' preoccupato, ma cioè Michele, è impressionante questa cosa. Sì. Allora, secondo me Me contro te sono una sorta di compagni di gioco, cioè perché loro, insomma, se avete visto qualche loro video, eccetera, loro giocano molto sul tema ludico, e quindi sono dei fratelli più grandi, simpaticoni e un po' matti, mentre magari per quello che riguarda la musica o tutte le altre cose, cioè sono quelli un po' più grandi, un po' trasgressivi, quelli, cioè sono delle figure un po' altre, ecco, quindi secondo me c'è molta differenza tra i Me contro te rispetto a un Sfera e Basta, voglio dire, no? Certo, seppur, certo. Quindi insomma c'è quel tema di trasgressione, c'è quella cosa lì che invece questi sono proprio dei compagnoni di gioco, e quindi assolutamente, poi insomma loro sono i primi a stare molto attenti anche ai contenuti, alla parte, diciamo, etica tra virgolette dei loro contenuti. Beh, meraviglioso. Allora facciamo una breve pausa, perché invece poi voglio parlare di un altro argomento proprio che riguarda la musica, un altro argomento che parte da una questione economica che poi diventa appunto una questione di creatività, di modo di fruire della cultura. Tra pochissimo, una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per l'ultima mezz'ora del nostro RadioTube Social Network con il co-conduttore d'eccezione Gabriele Ferraresi, Head of Publishing di Lutz e direttore responsabile di Sapiens, e al telefono abbiamo Michele Boroni, che anche lui è un po' in famiglia. Certo, sì, essendo grande collaboratore, prestigiosissimo. Una tua grande firma di Sapiens, Michele, eccoci ancora qua. Sapete che ho avuto un pensiero, perché parlavamo, no, del confine tra i bambini che il giorno prima guardano i Me contro te e il giorno dopo o magari lo stesso giorno guardano i video dei trapper. Non è che magari, cioè, mi viene in mente Rovazzi, che era un po' il rapper però giocoso, che ha un po' aperto la strada a queste cose. Tra l'altro il secondo bilancio della Rowe, della sua casa di produzione, è in rosso, scrive sempre Radio Core, nonostante i ricavi triplicati a 0,9 milioni, però è perché era stato, insomma, il 2018 era stato un anno di grande attività per Rovazzi, il 2019 insomma ha fatto un po' meno cose. Mi piace andare anche a vedere un po' di numeri per farvi capire che sono cose vere, non è che stiamo parlando solo di gente che si diverte, che gioca, stiamo parlando di realtà economiche. Cosa ne pensi, Michele? Questo Rovazzi poteva essere un po', cioè è stato scoperto poi dai bambini, nonostante non fosse una cosa per bambini. Sì, Rovazzi ha giocato, non potendo giocare diciamo su delle doti artistiche vere e proprie, ha giocato molto sul appunto più sul gioco e più su un target, quindi su un pubblico più giovane. Secondo me il fenomeno Rovazzi continua a esserci, magari meno popolare, nel senso che poi alla fine anche questa onda o questa bolla delle canzoni è meno forte, però nello stesso tempo lui è diventato un testimonial e un regista di spot, quindi lui diventa forse l'unico caso in Italia in cui un personaggio del genere crea e diventa anche protagonista di spot pubblicitari per importanti marchi. Quindi secondo me si è un po' spostata la cosa, lui ha utilizzato la musica per creare il personaggio e adesso diciamo ritorna a fare quello che faceva magari prima, delle canzoni, o quindi regista creativo questo ruolo qua. Ragazzo intelligentissimo, perché ricordiamoci che è veramente giovanissimo. Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di video, vorrei introdurre questo argomento su cui voglio un po' provocare Michele e Gabriele con un pezzettino di questo video. Puoi stare ore a chiedermi di non andare fuori dal love, o forse era un altro locale, sono un po' strano. Ti amo solo quando veniamo, quindi perché mi sputtani in giro? Dimmi cazzo ne sai di me. Ora vado a divertirmi, è una cosa comune dormire con altre persone. Forse non ci sarò il venerdì a Loreto, se chiami non risponderò. Mi ami, dimmi di no, tradire fa ridere, ti prego non dire no. Ora che non ho niente mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nel perché? Allora, 996.500 visualizzazioni per questo video che è stato pubblicato il 23 gennaio, quindi due giorni fa, è il video numero uno in tendenza in Italia ed è Rapide di Mahmood. Ovviamente numeri pazzeschi, perché un milione sostanzialmente in soli due giorni sono dei numeri pazzeschi per YouTube. YouTube che è diventato forse una delle maggiori fonti di approvvigionamento di musica per i ragazzi, Michele. Sì, ora io non ho i numeri davanti, non ho i numeri ben chiari, però ecco, sicuramente nella classifica dei singoli più ascoltati, visto che i singoli fondamentalmente non si vendono più, cioè non ci sono più né 45 sì. giri né i CD singoli che per un periodo... Che abbiamo fatto in tempo a comprare i CD singoli, ma non esistono più... Quindi oggi questa classifica che viene continuata a fare, viene redatta da FIMI, che è appunto la Federazione Italiana di Musica dell'Industria Musicale Italiana, sì. Infatti, nella classifica dei singoli YouTube sicuramente ha un peso importantissimo, perché appunto da strumento di promozione, quale è stato il videoclip diciamo negli anni 80 quando è nato, è diventato prodotto stesso, alla fine la canzone è il videoclip, e quindi la canzone più sentita è quasi sempre il video più visualizzato sulle piattaforme, su YouTube in particolare. Devo dire che appunto questo video poi ha delle visualizzazioni altissime e si vede dai commenti che non sono tutte italiane, perché esatto. Poi grazie all'esposizione dell'Eurovision Mahmood è diventato un personaggio perlomeno europeo. Allora, perché ne stiamo parlando? Perché questa settimana il ministro Franceschini ha esteso i benefici di legge del cinema anche ai videoclip, dicendo che il videoclip è una forma d'arte. È una cosa importante per l'industria della musica, che finanzia il videoclip, per l'industria dell'audiovisivo, che realizza il videoclip. È anche culturalmente una cosa importante. Io lo chiedo sempre a Michele, perché insomma tu con la TV musicale hai avuto a che fare anche in tempi non sospetti. Sì, sì. Allora, se posso fare una critica a questa notizia, che comunque è una notizia assolutamente positiva, come dicevi, diciamo che è venuta un po' fuori tempo massimo, nel senso che nel frattempo quindi i canali televisivi fondamentalmente che basavano il loro business, la loro programmazione principalmente sui videoclip, esistono ancora ma hanno, diciamo, sono marginali, e dall'altra parte invece vanno ad arricchire YouTube e le altre piattaforme che da una parte sono nemiche e insomma che si stanno mangiando un po' tutta la parte dell'entertainment. Quindi bene che ci sia, è giusto dare un riconoscimento artistico e non solo promozionale ai videoclip, però ecco, magari se questa cosa fosse avvenuta prima, magari, diciamo, ci sarebbero ancora alcune realtà, anche lo stesso mercato musicale, che ha attraversato un'importante crisi, oggi in parte risolta, però insomma i numeri sarebbero un po' diversi. Cosa ne pensi, Gabriele? Beh, allora, il credito d'imposta è una cosa bellissima e strausata nel cinema. E usarla, come diceva anche l'ottimo Michele, per i videoclip nel 2019 insomma è un po' tardi, forse era meglio arrivarci insomma 20 anni prima o 25 anni prima, anche perché i budget dei video musicali adesso sono infinitamente, saranno un cinquantesimo, un centesimo di quello che potevano essere, diciamo, nel 99, sì. Non dico nell'89, però insomma arriviamo sempre tardi, Marta, è finita la festa, mannaggia. Veramente, noi siamo proprio la generazione, esatto, che arriva sempre quando stanno già sparecchiando, esatto. Accidenti. Allora, 17:45 minuti, Michele, ti tengo ancora un attimo al telefono perché voglio ancora fare una considerazione che mi ha suggerito il presidente della FIMI, Enzo Mazza, qualche giorno fa, che abbiamo mandato in onda a effetto giorno, viabilità, e poi l'ultima considerazione su questo argomento. Radio Tube Social Network. Intanto ho aperto Instagram, stavo guardando le tue stories, Gabriele. Cioè, tuo figlio ha già acchiappato? Tre mesi, ha già cuccato una signorina? Sì, quella lì è l'ottima Mirta, figlia di amici. Già fatto, guarda, già coppia, matrimonio combinato. Mamma tutto mia, fatto. Veramente, già pronti. Ma proprio già, li vedo già. È pieno di corteggiatrici e di promesse spose, in realtà. Sì. Sono pieno di matrimoni combinati. Prima o poi dovrò dire la verità a qualcuno. Ancora tre mesi, c'è ancora tempo. C'è tempo. Allora, vi faccio sentire un altro pezzettino di un video. I Pantellas hanno fatto la parodia di una canzone che in questo periodo mi fa impazzire, nel senso che divento proprio pazzo ogni volta che l'ascolto. I Pantellas, parodia Dance Monkey. Prendo treni e pullman ogni giorno, sai, e con la metro tu non sai poi che via vai. Se li prendi anche tu mi capirai che quando sali tu nell'aria annuserai. Sì, dai, senti questo odor di letamai, pare cipolla unita all'aglio della grai. Sembra un pesce marcio degli Hawaii, quindi zio spero non ti offenderai. Ma su, lavati, lavati, lavati, oh oh. C'è Filippo in regia che sta ballando questa versione di Dance Monkey, che è Lavati Lavati. A casa mia la chiamiamo Muffami Muffami, perché in realtà è Move For Me, ma noi la chiamiamo Muffami Muffami. Allora, di cosa abbiamo parlato l'altro giorno con il presidente della FIMI, Enzo Mazza? Di come poi i video siano anche un incubatore per la creatività. Quindi anche i video che vengono condivisi, le parodie che nascono, il TikTok che fa scatenare la creatività dei ragazzi. Insomma, alla fine, sotto questo punto di vista, dal punto di vista della creatività, questo periodo così tanto vituperato, alla fine, Michele, qualcosa di buono lo sta tirando fuori, sta dando ai ragazzi dei giochi più interessanti con cui giocare. Ma sì, questa è la bellezza di internet ed è il fatto proprio, cioè parlando appunto di mass media, è la grandezza di internet, che non è un canale unidirezionale ma è interattivo, e quindi cioè, qualsiasi contenuto può essere preso, ribaltato, può essere personalizzato e diventare il suo stesso nuovo contenuto. Quindi questo è alla base di internet, e per fortuna continua a essere uno dei motori principali di questo ambiente, che poi non si può nemmeno più chiamare un canale media, ma è un vero e proprio ambiente dove ognuno con un po' di creatività, un po' di idee, eccetera, può avere la, non solo la propria ribalta, ma come dire, esprimersi, una forma di espressione abilitativa. Bello, mi piace, una forma di espressione abilitativa. Allora, questo video è al numero 7 delle tendenze in Italia, ma è stato pubblicato solo ieri e ha già 612.485 visualizzazioni. Ovviamente la mia è la quinta, perché l'ho aperto in questo momento. Grazie Michele Boroni per essere stato con noi, un abbraccio. Grazie Michele. Ciao Michele. Tra l'altro, chissà se ti ricordi, Michele, di quella volta che eri in studio con me e che Luciano Spinelli, che è star di Musical e poi di TikTok, cercava di insegnarci a usare l'allora Musical e ora TikTok. Cioè, avremmo potuto diventare delle star dei TikTokers. Io lo ricordo perfettamente. Non abbiamo imparato. Che imbarazzo. Che imbarazzo. Ciao Michele, grazie, a presto. Ciao. Allora, devo dire che effettivamente questa cosa dei videoclip è una cosa estremamente interessante. Però io vorrei tornare indietro a questa cosa dei me contro te, che fanno le sfide, che fanno le challenge, perché i ragazzi vedono queste scommesse che fanno i me contro te in maniera abbastanza giocosa. Invece, guardando nelle sfide, nelle tendenze, mi sono imbattuta in questo video che ragazzi, però, cioè veramente, io l'ho trovato non incommentabile. Allora, quante visualizzazioni ha in questo momento? 372.412, è mica male. Mica male, direi. Pubblicato il 20 gennaio, quindi in 4 giorni, insomma, sono sempre numeri enormi. Il canale è 123 Go Challenge Italian. Diciamo che però è un non è un video italiano, è un video con doppiato in Italia. Allora, ti sei mai arrabbiato? Uno dice, certo che mi sono arrabbiata. Poi in questo caso particolare lei viene lasciata, e quindi se ci è capitato un sacco di volte. E qui danno un suggerimento su come sfogare. Vabbè, sentiamo. Mi è arrivato questo pacco. Come vedete dal titolo, si tratta della cosa che... No, allora ragazzi, ho fatto un po' di confusione. No, quello dopo. Eccolo qua, ho fatto un cartello ma non si vedeva. Ecco, il video dopo. Ti sei mai arrabbiato? Così arrabbiato da schiacciare innocenti oggetti di uso quotidiano con la tua macchina? Può sembrare una pazzia, ma se sei davvero arrabbiato, fracassare roba a caso può farti sentire davvero, davvero bene. Quindi metti in moto, perché oggi ti faremo vedere come distruggere moltissime cose con la tua auto. Inutile piangere quando posso vendicarmi di lui. Ti chiederai dove mettere tutta la roba che hai tirato fuori dal tuo appartamento? Non preoccuparti, tutto sta andando in un posto migliore. È ora di mettere le cose a posto. Alice è arrabbiata e pronta a spaccare un po' di roba. Accidenti, i costosi tubetti di vernice di John! Sicuramente non gli piacerebbe vedere la tua auto che li distrugge. Ma devi ammettere che sembra piuttosto carino guardare tutti quei colori che schizzano in giro. Vabbè, insomma, in questo molto video con l'auto investono degli oggetti. infatti. Esatto, esatto, esatto. Giustamente centinaia di migliaia di visualizzazioni. Certo. E guarda, fai meno il paio, male che credo che quelli che fanno queste centinaia di migliaia non hanno ancora la patente. No, però probabilmente quando ce l'avranno non avranno una macchina loro e il papà sarà molto contento delle gomme arcobaleno. No, pazzesco. Cioè praticamente mettono per terra degli oggetti e ci passano sopra con la macchina. In effetti divertentissimo, l'avremmo fatto anche noi forse. Dici? Forse sì. Non lo so, devo dire che è divertente guardarlo, però insomma. Allora, noi continuiamo a seguire Gabriele Ferraresi, Head of Publishing Lutz e su Sapiens, che è SPNS. SPNS, SPNS su Facebook oppure sul sito Lutz, si trova nel menu in alto, molto facile da trovare. Un magazine di cultura, costume, interviste. Facciamo solo interviste lunghe a protagonisti della cultura e dell'attualità che vanno bene, interessano. Devo dirti la verità, ogni volta che vedo un'intervista dico: accidenti, ma questo personaggio potevo pensare anch'io, perché sono quei personaggi che uno dice effettivamente non ci aveva mai parlato l'idea. Allora facciamo così, io mi porto avanti coi saluti perché vorrei concludere con un video estremamente, direi un video di cultura, una scena che è andata in onda a Italia's Got Talent. Vorrei concludere con quel video, ma comincio, sì, perché vale proprio la pena. Allora, devo ringraziare tantissimo per essere stato in regia con molta pazienza, che non riuscivo a vedere il cartello che gli ho scritto, ma perché dovevi dirmelo, Filippo, che non si vedeva, tu urla, Marta, non si vede, Filippo Aureggi, che mi sopporta sempre, e poi Danilo Di Trani, anche lui con grandissima pazienza, che è stato accanto a me oggi, Gabriele Ferraresi, e adesso vado a spupazzarmi, vado a spupazzarmi il bimbo di Gabriele, altro che. Allora, cosa è successo a Italia's Got Talent questa settimana? Il video è dappertutto e vi saluto con questo poliglotta, eccolo qua. E che cosa farete stasera a Italia's Got Talent? Vorremmo giocare come facciamo tutti i giorni. Vorremmo invitare qualcuno che parla inglese. Io. Chico, guarda chi c'è, Gio. What's up, mate? Oh, impressive. I speak English. Yeah. Are you Australian?